mi pento, al fine vincasi per virtude, ovver per frode. È sempre il vincitore degno di lode. Pace sia al fine ogni strage, ogni guerra. In cieco oblio resti ignori sepolti.